Fabio Battistini. Abbiamo un'opportunità straordinaria, irrepetibile. Siamo a un bivio, veramente. Ci giochiamo moltissimo, non solo per noi. E mi sto riferendo alla gestione del fondo del Recovery Plan, i fondi del PNRR. Non è soltanto gestire bene questa opportunità, sapendo che se la gestisce male, se ce la gestisce male, se questi fondi non verranno messi in situazioni produttive, noi creeremo un debito che cadrà a cascata in maniera pericolosissima sui figli di nostri figli. Cioè siamo sul filo del rasoio. Qual è lo strumento che io credo, all'insegna anche di una certa novità, e qual è la politica di sguardo del coinvolgimento della città? Ho parlato in questi mesi di una fondazione di partecipazione che non è un ulteriore tavolo, ma è uno strumento giuridico a cui invitare a partecipare a questa fondazione tutti i soggetti sociali, in un patto sociale vero tipo economico, i soggetti attori della gestione dell'economia di questa città, dalle opposizioni politiche, è una bella sottolineatura che voglio fare, alle associazioni di categorie, alle associazioni di imprese, ai sindacati, è un'altra grande sottolineatura, a tutto il mondo cooperativistico che qui a Bologna ha tradizione, ha solidità e incide sul discorso economico. Da qui elaborare progetti fondamentalmente innovativi. Io sento i primi progetti dell'amministrazione uscente sulla gestione di questi fondi che guardano a finanziare imprese, intraprese già deliberate, la passante di mezzo, il tram, il ponte lungo, benissimo, ma dobbiamo alzare l'orizzonte, guardare a cose nuove, a progetti diversi, di guardare alla Bologna fra 20 e 30 anni. Oggi noi ci troviamo a mettere le toppe verdi sulla tangenziale, facendola per passante di mezzo, ma è quella stessa tangenziale che 40 anni fa assolveva il proprio compito e oggi con la città che è cresciuta ci porterà ad avere un traffico stradale per altri 20 anni al centro della città. Quindi l'idea è questo. Poi cose piccole, significative sulla capacità di amministrare una città, lo sguardo che si ha su Edeors, abbiamo già fatto polemiche, io ho sotto occasione involontariamente di polemiche, fare un passo indietro, come si dice lepore, finita l'emergenza Covid, per ritogliere queste piccole opportunità di maggior gestione di lavoro da parte dei bar e ritornare all'amministrazione dei controlli e dei divieti, lo trovo quasi scandaloso. Un terzo e ultimo punto per l'economia, l'utilizzo più qualificante e sistematico per qualche aspetto dei bond sociali.